luce il tuo profilo ha un colore indefinito, la tua immagine riflette su un discorso che non smette, la chiarezza nei tuoi occhi, le parole affascinanti che si dicono due amanti, ma davvero siamo noi. Se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro non mi piace, la bellezza non mi dice le parole che vorrei, quanti baci e tradimenti, matrimoni e pentimenti, fan di te una donna sola, che da sola resterà. Con il sole e con la pioggia ti bagnavi sempre tu, ero pronto ad asciugarti, ma non ce la faccio più. E per chiudere il discorso voglio dirti amore mio, questo è un arrivederci e non è certo un addio. Sarà facile incontrarsi, educato salutarsi, quell'azzurro di sicuro non mi incanterà mai più. Il mio orgoglio è ancora vivo e non morirà con te, lascia stare quell'azzurro che non è adatto a te. Se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro non mi piace, la bellezza non mi dice le parole che vorrei, quanti baci e tradimenti, lacrimoni e pentimenti, fa di te una donna sola che da sola resterà. ...1977... musica italiana, Umberto Bassano, L'Angelo Azzurro, canzone veramente meravigliosa che abbiamo ritrovato questa sera qua, Star Trek, Viaggio nella storia della musica, in versione diretta con Andrea, ancora per circa 10 minuti, poi purtroppo ci congederemo, però insomma ci ritroveremo poi ancora su questi schermi, a Dio piacendo. E vi dicevo, appunto, questa canzone mi ricorda una persona e quindi insomma non potevo non metterla, così è stata una sorta di ricordare un bel fatto che mi è accaduto nell'estate 2015, una bella cosa veramente. Vabbè, per approfondire la cosa non è possibile per via della violazione della privacy. No dai, scherzo ragazzi. Vi ricordo ancora una volta il nostro indirizzo email se volete collaborare con la trasmissione: startrek@infinito.it. Questa è la mail, oppure il mio sito internet www.andreamangiarotti.com. andreamangiarotti.com, facile da ricordare, facilissimo, quindi così, cos'è? Intanto scusatemi, squilla un attimo il telefono, chi è che potrebbe essere, non lo so, vediamo, pronto? Oh. Ah ok, sta squillando, ok, rispondo, va bene, sì, pronto? Ah ok. Sì. Leonessa. Ah. Chi è? Sì, guardi che il signor Leonardo, sì, è già uscito. Certo che lo conosco. È un signore con le mani da meccanico. Beh, non sono io, sì, comunque. Sì, riferirò. Ma no, sì, veramente. Ha detto che lei stanotte lavora fino alle 3:30 che l'aspetta di portare i soldi questa volta. No, parole. Era Renato Pozzetto, continua la musica, continuano le emozioni, i ricordi. Ci spostiamo adesso negli anni '80, a mio avviso una delle canzoni più belle che Sting abbia mai composto. E lo so, immagino, vi vedo a casa che riflettete, meditate, che canzone potrebbe essere, eh beh. ne ha fatte tante di belle Sting, però questa veramente secondo me è il mio parere veramente da profano della musica, secondo me questo brano è tra i più belli che Sting abbia mai composto. Lo facciamo partire immediatamente, ve la regalo e vi auguro una splendida serata. Englishman in New York, ladies and gentlemen, Mr. Sting e si sogna su queste note meravigliose alle 22:34 minuti primi in diretta con Andrea e soprattutto in diretta con la grande musica di Sting. Veramente meravigliosa, non ci sono parole per descrivere la bellezza di questo brano. Era Englishman in New York, Sting, qua all'interno di Star Trek Viaggio nella storia della musica con Andrea. E Englishman in New York purtroppo è anche l'ultima canzone che conclude la nostra trasmissione odierna, però non disperate perché torneremo ancora in diretta. Prima però di salutarci abbiamo ancora circa 5 minutini di tempo e in questi 5 minuti facciamo una piccola riflessione, un flashback del passato. Ricordiamo internet del 1999, magari non so, ogni volta all'interno della trasmissione ricorderemo qualcosa che riguarda proprio internet di un tempo, quando si viaggiava con il mitico modem 56k. Era un periodo veramente glorioso, era tutto diverso da oggi. Oggi siamo tutti connessi, un tempo, io lo amo sempre definirlo così, quel periodo. Eravamo forse un po' tutti sognatori romantici, eravamo in pochi, però sognatori romantici. Oggi si può dire siamo sempre su Facebook, però un tempo non era così, internet non era così. Potremmo anche citare qualche sito che in quel periodo andava veramente per la maggiore, in particolare il mitico sito Tripod and Lycos, che nel 1998-99 fino circa al 2004 era un sito seguitissimo dove chiunque poteva crearsi un vero e proprio sito web. Poi c'era anche, mi ricordo, una chat molto carina dove c'era un mio carissimo amico, gli mandiamo anche un saluto, al Giangio, che mi ricordo veniva a casa mia, stava a casa mia a chattare fino alle 4 del mattino su Tripod and Lycos. E che non era come adesso, come Facebook, no? Che vedevi le foto eccetera eccetera, come altri siti dove puoi chattare, che però vedi la persona. lì si andava veramente a ruota libera, poteva capitarti di tutto, uomini che si spacciavano per donne e così via, insomma. E questo angolo abbiamo ricordato appunto Internet di un tempo, nel 1999, il mitico sito Tripod and Lycos. Se ve lo ricordate, se avete ricordi, scriveteli magari nei commenti o scrivetecelo tramite posta elettronica. E quando già questa basettina, ciò significa che siamo arrivati al termine della trasmissione. Stanno scorrendo i titoli di coda ormai. Scusate per la conduzione questa sera, molto molto farraginosa, ma ero abbastanza emozionato, perché tornare in onda dopo circa 7 mesi, insomma, non è da poco. Non è che ho avuto una vincita miliardaria e sono andato in Svizzera a depositare i soldi, non vi preoccupate, tranquilli. No, quello non sicuro, però c'è stato un po' di stop delle trasmissioni. E chissà mai, visto che io sono un tipo lunatico, cambi idea in fretta, magari ci saranno dei proseguimenti di Star Trek. Sempre ovviamente su questi schermi. E vi ricordo una cosa molto importante, ricordate tutti una cosa veramente, veramente importante. Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, ho paura che mi morda. Arrivederci. Questa è la cosa importante, dai, vi ho fatto lo scherzetto, va bene, è molto importante soprattutto stare attenti, perché c'è da stare attenti. Io ringrazio tutti i personaggi che sono intervenuti, sono saliti a bordo col teletrasporto dell'astronave Enterprise. Noi abbiamo finito, io vi ringrazio per l'attenzione, quindi mi raccomando, tenete d'occhio questo sito, perché da un giorno all'altro potrei ancora tornare in diretta a rovinarvi la serata o la nottata. Se volete scriverci, fate quello che volete, anche insulti, no, scherzo, dai, anche critiche costruttive, se volete fare critiche, però mi raccomando ragazzi, costruttive. Io vi ringrazio ancora, ho ancora un minutino di tempo, lo spendo ancora una volta ricordando tutti i vari contatti per entrare in connessione con Star Trek. Sito internet www.andreamangiarotti.com. Forse andrea.es, se riesco a acquistare il dominio. Se non c'è il mio blog, ci sarà un'altra cosa che non è mia. Quindi, non so. Speriamo di acquistare il dominio. Adesso vediamo. Siamo in combutta, diciamo così. Altre cose, niente, Andrea, io ero Andrea vi saluta e vi ringrazio per l'attenzione prestatami. Ciao, scrivetemi se volete, che vi saluto in onda, grazie. Buona serata a tutti e buonanotte.